Sesta domenica del tempo ordinario. Commento di Hermes Ronchi. La nostra felicità è nel progetto di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta la paura di rovinarlo con le mie parole. So di non averlo ancora capito, continuo a stupirmi e a sfuggirmi. Sono le parole più alte del pensiero umano, parole di cui non vedi il fondo. Ti fanno pensoso e disarmato, riaccendono la nostalgia prepotente di un mondo fatto di bontà, di sincerità, di giustizia. Le sentiamo difficili eppure amiche, perché non stabiliscono nuovi comandamenti. Sono invece la bella notizia che Dio regala gioia a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si fa carico della sua felicità. Beati, parola che mi assicura che il senso della vita è nel suo intimo, nel suo nucleo ultimo, ricerca di felicità. La felicità è nel progetto di Dio. Gesù ha moltiplicato la capacità di star bene. Beati voi, poveri. Non beata la povertà, ma le persone, i poveri senza aggettivi, tutti quelli che l'ingiustizia del mondo condanna alla sofferenza. La parola povero contiene ogni uomo. Povero sono io quando ho bisogno d'altri per vivere. Non basto a me stesso. Mi affido, chiedo perdono, vivo perché accolto. Ci saremmo aspettati, beati perché ci sarà un capovolgimento, perché diventerete ricchi. No, il progetto di Dio è più profondo e più delicato. Beati voi, poveri, perché vostro è il regno, già adesso, non nell'altro mondo. Beati perché è con voi che Dio cambierà la storia, non con i potenti. Avete il cuore al di là delle cose. C'è più Dio in voi. Siete come anfore che possono contenere pezzi di cielo e di futuro. Beati voi che piangete. Beati non perché Dio ama il dolore, ma perché è con voi contro il dolore. È più vicino a chi ha il cuore ferito. Un angelo misterioso annuncia a chi piange: il Signore è con te. È nel riflesso più profondo delle tue lacrime, per moltiplicare il coraggio, per farsi argine al pianto, forza della tua forza. Dio naviga in un fiume di lacrime. Non ti salva dalle lacrime, ma nelle lacrime. Non ti protegge dal pianto, ma dentro il pianto, per farti navigare avanti. Guai a voi ricchi, state sbagliando strada. Il mondo non sarà reso migliore da chi accumula denaro. Le cose sono tiranne, imprigionano il pensiero e gli affetti. Ho visto gente con case bellissime vivere solo per la casa. Diceva Madre Teresa: ciò che non serve pesa. E la felicità non viene dal possesso, ma dai volti. Se accogli le beatitudini, la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di Dio, e possono cambiare il mondo.